Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi apriamo la nostra puntata con un ricordo, quello di Luana Ricca. Luana, qualcuno di voi forse se ne ricorderà, è stata protagonista 2 anni fa di questa trasmissione. All'epoca lavorava come medico chirurgo a Parigi. Pochi mesi dopo è tornata in Italia, approdando a Milano prima di trasferirsi all'ospedale dell'Aquila, dove aveva vinto un concorso. A inizio dicembre, partecipando a un convegno a Londra, Luana aveva raccontato che il suo ritorno nella penisola non era stato facile. Era finita a lavorare in un dipartimento di chirurgia che non le consentiva di proseguire la propria carriera e formazione. Il 29 dicembre Luana si è tolta la vita, lasciando un bambino e il marito. Aveva 38 anni. Il fratello Francesco ha denunciato l'assenza di meritocrazia nella sanità italiana. In Italia si è spesso costretti a cedere il posto a chi viene dopo di te. Nella sanità non esiste meritocrazia, ma si va avanti per amicizie, favori e simpatie, ha denunciato al portale Abruzzo Web. Torneremo a parlare di Luana, caso sul quale è stata aperta un'indagine. Noi la ricordiamo con il suo grido di un cervello in esilio, lettera che ci inviò 2 anni fa e che ripubblicheremo a breve sul blog di Giovani Talenti. E soprattutto la ricorderemo per la sua grande generosità e disponibilità. A Luana dedichiamo questa prima puntata dell'anno. Puntata che si apre come di consueto con la frase della settimana, copyright del governatore di Banca Italia Ignazio Visco. La mancanza di addetti qualificati ha ritardato la diffusione delle nuove tecnologie nelle nostre imprese. Il ritardo italiano riflette le caratteristiche dell'offerta di lavoro e in particolare la carenza di lavoratori qualificati. Per Visco, in parte, il paradosso è riconducibile alle strategie delle imprese, la cui domanda di lavoro qualificato è frenata dalla specializzazione in settori tradizionali e ad alta intensità di lavoro, dalla ridotta dimensione aziendale nonché dal contesto istituzionale e regolamentare. I dati parlano da soli, avere una laurea in tasca conviene dal punto di vista della retribuzione, ma in Italia conviene meno che in altri paesi. Secondo il rapporto OCSE Education at a Glance, è vero che nella penisola i laureati hanno redditi più alti, tuttavia l'Italia si distingue in negativo rispetto ai paesi che registrano quote altrettanto piccole di dottori. Normalmente a un minore numero di laureati corrispondono infatti generalmente maggiori vantaggi salariali. Ciò avviene in Brasile, Messico o Turchia, non nella penisola. Rincara Eurostat, poco più di metà dei laureati italiani, 53%, risulta occupato entro 3 anni dal titolo, il dato peggiore nell'Unione Europea dopo la Grecia. Siamo 27 punti, 27 sotto la media. Sarà anche per questo che in Italia soltanto il 42% dei giovani si iscrive all'università e che al sud gli immatricolati sono scesi sotto quota 100.000? Intanto cala, ma resta ancora molto alta la disoccupazione giovanile, 38,1% a novembre. Non c'è così da stupirsi se i giovani più qualificati emigrano verso paesi più ricettivi nei confronti del loro grado di istruzione. Sono sempre poi stata un'esterofila e direi che l'esperienza italiana non mi ha particolarmente ispirata al punto infatti di aver poi continuato la ricerca di esperienze all'estero. Teresa Pastina, 35 anni, è una start-up italiana in Gran Bretagna specializzata nel reclutamento di italiani oltremanica. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. In apertura vi confermiamo che, secondo l'articolo 259 della manovra di stabilità approvata prima di Natale, la legge 238/10, conosciuta come controesodo, ha cessato di esistere lo scorso 31 dicembre. Tutti coloro che rientravano nei requisiti della norma e che sono tornati in Italia entro la fine dell'anno scorso potranno beneficiare di sconti fiscali elevati fino a tutto il 2017. A tutti coloro che rientrano nella penisola da quest'anno sarà applicato il nuovo bonus fiscale, abbassato al 30%, quindi meno della metà. A proposito di chi torna, vi ricordate i giovani start-uppers di SoundReef, di cui vi abbiamo raccontato la storia 11 mesi fa in UK? Ebbene, è notizia recente che il suo AD, Davide D'Atria, ha deciso di portare tutto in Italia, società compresa. Lo abbiamo fortemente voluto perché l'Italia può e deve essere un faro di innovazione e creatività in Europa, ha detto D'Atria. Un controesodo di cervelli e di capitali. Restiamo in tema con la quarta puntata della rubrica Controesodati. Oggi la storia di Luca De Guidi, 32enne ingegnere di rientro nella penisola alla ricerca di prospettive. Scommessa, per ora vinta. Vi ricordiamo che questa rubrica è realizzata in collaborazione con Alessia Marsigaglia dell'associazione iTalents, dal cui network attingiamo le storie che vi raccontiamo per info italents.org. Per cominciare, Luca ci racconta il suo periodo all'estero. due anni in Repubblica Ceca come ingegnere per lo sviluppo industriale, a cui sono seguite, in quel periodo sono seguite numerose trasferte in giro per il mondo, un mese in Messico sempre come ingegnere per lo sviluppo industriale e poi un anno e tre quarti circa in Francia come responsabile Lean Manufacturing e World Class Manufacturing. Cioè una bella esperienza in giro per il mondo, tra l'altro per un'azienda italiana. Esatto, per un'azienda italiana. Poi cosa succede? Perché a un certo punto decidi di tornare? I collegamenti con la casa madre sono fatti più foschi e meno chiari. Il piano di carriera non veniva definito e non venivano definite soprattutto la durata della mia residenza all'estero e non mi veniva paventato, anticipato a nessun prossimo spostamento, a nessuna evoluzione. Di conseguenza sono stato contattato parallelamente da questa nuova azienda su suolo italiano che mi ha proposto un posto molto allettante e si trattava anche di ritornare quindi a casa. Insomma, se capisco bene, a incidere sono state le prospettive di carriera soprattutto. Prospettive di carriera, certamente, anche la collocazione del lavoro vero e proprio. Com'è stato tornare in Italia dopo tanti anni all'estero? C'è stato uno shock, tra virgolette, di rientro? La verità è che gli italiani criticano tanto l'Italia, ma io sono stato in Repubblica Ceca, che non si può certo considerare uno degli stati più ricchi nel panorama europeo, e in Francia, che normalmente viene considerata avanti l'Italia come servizi, struttura sociale e via così. E devo essere sincero, onestamente l'ho provato sulla mia pelle, in Italia non si sta così male. Certo, ci sono pro e contro, ma sono stato ben contento di tornare. In brevissimo, i pro e i contro. A livello sociale, sicuramente gli italiani sono un popolo molto, molto caldo e amichevole. Tassazioni. Devo essere sincero, ho trovato il sistema di tassazione francese estremamente alto e una burocrazia veramente, veramente complicata, e non l'avrei mai detto. Mentre quando sono tornato in Italia, tornando in Italia, ho trovato tutto più semplice. D'altro canto, i prezzi, quando sono in Repubblica Ceca, beh, era un paradiso, voglio dire, costava tutto molto poco e i servizi erano sufficientemente adeguati. Quindi le cose si equilibrano abbastanza. Ecco, ora sei un ingegnere, sei quadro, la tua azienda è in Italia, però ora dipende da una multinazionale americana. Quanto il fatto di essere comunque, tra virgolette, stranieri, incide anche positivamente sulle prospettive di carriera? Beh, di sicuro il bacino di possibilità è molto, molto, molto più ampio. Prima che fossimo comprati dagli americani, avevamo tre stabilimenti in Italia e uno in Polonia. Adesso che apparteniamo al gruppo multinazionale, in realtà le opportunità di carriera sono elevatissime. Il tuo futuro lo vedi in Italia? No, non necessariamente. Sono sempre aperto a spostarmi non è mai stato un problema. Sono ritornato giusto perché l'offerta era vincente. Siete controesodati? Volete raccontarci il vostro rientro nella penisola? Scriveteci giovanitalenti@radio24.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Gran Bretagna. Lo facciamo per parlare proprio di lavoro nel regno di Sua Maestà. Nome: Teresa. Cognome: Pastena. Età: 35. Città di origine: Avellino. Studi: Scienze internazionali e diplomatiche. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2003, primissima volta, e poi 2008 in maniera definitiva. Per andare dove? Londra. Perché? Un grande amore per la città. Quale lavoro svolgi attualmente? Ho un'agenzia di reclutamento e consulenza lavoro per i professionisti italiani. Dove? Londra. Tornerai? Non credo, almeno non per ora, poi mai dire mai. Arrivata a Londra nel marzo 2008, ho scoperto che non era assolutamente facile come avevo pensato. Ho dovuto fare un percorso lungo due anni prima di ottenere il mio primo lavoro remunerato nel settore cui ambivo. Teresa, l'incipit della lettera che ha inviato a giovanitalenti@radio24.it, la dice lunga sulle difficoltà che si incontrano oggi nella capitale britannica, meta simbolo dell'emigrazione di centinaia di migliaia di giovani italiani e non solo. Domanda provocatoria per cominciare: è ancora una piazza in grado di offrire opportunità a Londra, o meglio cercare altre strade? Londra offre senz'altro ancora moltissime opportunità. La mia difficoltà di inserimento iniziale credo nascesse soprattutto dalla mancanza di competenze precise, quindi avevo fatto tutto e niente e questo non mi poneva sul mercato come una professionista con una expertise. Aggiungo inoltre che non avevo neppure un'esperienza locale, che molto spesso è fondamentale per accedere al mercato inglese. Relazioni internazionali, questo è il percorso di studi che scegli all'università. Perché? Cosa ti attraeva? Era un percorso di studi molto nuovo allora. I corsi previsti trattavano tematiche interessanti ed io ho sempre avuto come obiettivo quello di lavorare nel terzo settore, motivo per cui poi ho scelto questi studi. Teresa, che giudizio dai degli anni di studio in Italia? Abbiamo una qualità dell'insegnamento buona, soprattutto se confrontata con quella britannica? Io credo che la qualità di insegnamento in Italia sia senz'altro tra le migliori in Europa. Nel Regno Unito si ha un approccio molto più pragmatico che teorico. In Italia invece è esattamente l'inverso. Inoltre nel Regno Unito di media si studia 3 anni, quindi si fa il bachelor degree e poi si cerca lavoro. In Italia non è invece così. Tu non parti subito per l'estero e resti per un periodo in Italia. Per fare cosa? Per fare un tirocinio al Ministero degli Esteri con il bando MyCrui e qualche collaborazione universitaria. Qual è il tuo personale bilancio degli anni in Italia, lavorativamente parlando? Senz'altro non particolarmente positiva, sono sempre poi stata un'esterofila e direi che l'esperienza italiana non mi ha particolarmente ispirata al punto infatti di aver poi continuato la ricerca di esperienze all'estero. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. E così nel 2007 parti per la Francia, con quale mission? Parto per la Francia con un progetto europeo, Leonardo da Vinci, per lavorare in un ONG. E prima di approdare a Londra ti giostri, lavorativamente parlando, tra Francia e Lussemburgo. A posteriori, che bilancio tracci di questi mesi continentali? Quanto ti sono serviti per crescere professionalmente? Tantissimo. Io direi che un periodo all'estero dovrebbe essere obbligatorio per tutti, secondo me. È un periodo formativo che nessun libro ti insegna. A livello professionale mi ha dato tantissimo. Linguisticamente parlo francese fluentemente e infatti non appena sono arrivata a Londra, poi nel giro di 7 giorni ho trovato il mio primo tirocinio in un'associazione non-profit. Ci arriviamo. Andiamo al sodo. Nel marzo 2008 arrivi appunto a Londra, città che conosci bene. Tuttavia, rilevi, mi sono subito resa conto di quanto fossi impreparata e poco skilled per il mercato del lavoro. Cosa ti mancava? Un po' come dicevo prima, mi mancava una solida esperienza lavorativa. Avevo fatto molti stage anche all'estero appunto, qualche collaborazione all'università, qualche altro progettino, ma nulla che mi conferisse un profilo professionale. Allora, tu cercavi lavoro nel settore no profit, mettiamo subito in chiaro, e il tuo percorso è tipico di molte storie di giovani immigrati, un paio di tirocini non retribuiti e poi il lavoro vero. Non nel no profit però, in questo lavoro, perché tu cominci dove? Io comincio dal classico lavoro al pub, quindi lavoro al pub nel fine settimana, i tirocini non pagati, poi arriva un'esperienza di lavoro come addetta alle vendite e poi successivamente passo al Financial Times. Come events coordinator, coordinavi appunto gli eventi nel gruppo editoriale, poi però finalmente arriva l'occasione per la ONG. Quindi settore no profit, Medici del Mondo. Al di là della concorrenza e competizione spesso spietata, quanto però è meritocratico e basato sul curriculum il mondo del lavoro anglosassone? Tantissimo, il curriculum è il bigliettino da visita ed è con il curriculum che si decide se andare avanti o meno per un colloquio. La trasparenza in UK è confermata anche per esempio dalla pubblicazione delle offerte di lavoro sui siti di tutte le aziende, cosa che in Italia è assolutamente impossibile invece trovare. Piccolo passo indietro, perché per ironia della sorte un lavoro in Italia lo avevi anche trovato da Londra nel periodo più buio della tua ricerca di impiego, assistente di direzione presso una ONG milanese. La cosa più incredibile, se vogliamo, è che alla fine però scegli di restare a Londra anche per motivi economici. Quanto ti offriva in più l'ONG Medici del Mondo per un lavoro part-time contro un full-time a Milano? Sì, allora l'ONG londinese con un part time 3 giorni a settimana mi dava 1500 euro, il full time italiano 800-900. È incredibile, no? Sì, assolutamente sì. A parità di sostanzialmente di costo della vita è normale sotto avere tali differenze retributive tra due paesi? No, non è assolutamente normale, credo che sia uno dei problemi principali dell'Italia, motivo per cui moltissimi vanno via. A Londra per ogni posizione si compete in media contro 200 candidati, questo rende la ricerca difficile, rifletti. Anche per questo trasformi un vincolo in un'opportunità. Prima di raccontare la tua idea, diciamo subito una cosa, quanto ti è costato aprire una startup in Gran Bretagna, sia a livello di costi che di pratiche burocratiche? Un paio di centinaia di pound con il lancio dell'agenzia appunto nel 2012, quindi costi del sito, registrazione compagnia e bigliettini da visita. Zero costi per l'ufficio, perché poi appunto insomma il concetto è quello di incontrare i clienti nelle caffetterie, e personale tutto freelance, quindi pochissimi costi per setappare la startup. Circa 300 euro alla fine. Sì. Nel settembre 2012 nasce CV & Coffee. Allora, qual è l'idea alla base della tua startup? Dunque, Civi & Coffee nasce appunto nel 2012 per offrire consulenze CV, cover letter e preparazione colloquio ai professionisti italiani. Incontriamo i clienti nelle caffetterie indipendenti londinesi. Negli ultimi 4 anni abbiamo assistito migliaia di candidati, motivo per cui nel 2015 abbiamo lanciato la prima e unica agenzia di reclutamento in UK specializzata in candidati italiani. Quindi lavoriamo ora anche con le aziende che cercano personale che abbiano conoscenze della lingua inglese, ma anche quella italiana. Allora, ti faccio 2 domande secche prima di approfondire il tema ricerca di lavoro con l'ospite. Dove sbagliano gli italiani che cercano impiego in Gran Bretagna? Allora, manca totalmente innanzitutto l'approccio alla ricerca del lavoro, quindi i CV si riducono molto spesso ad essere una lista di ruoli svolti e non di successi registrati all'interno delle aziende. Non si è in grado di presentarsi ai datori di lavoro e questo credo derivi da 2 problemi. Il primo è che nessuno ci insegna in Italia a scrivere un buon CV, né alle scuole né alle università. Il secondo forse è più culturale. In Italia serve un CV nella ricerca lavoro? Credo sicuramente meno che in UK. E qual è il consiglio principe che elargisce ai giovani che incontri su come cercare lavoro in Gran Bretagna? Giovani o meno giovani, il consiglio è quello di avere un obiettivo preciso, di avere consapevolezza di quelle che sono le proprie competenze prima di cominciare la ricerca e di avere un buon inglese. Non si può cercare lavoro senza avere conoscenza della lingua inglese. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Teresa Passena, 35 anni, imprenditrice start-upper in Gran Bretagna. Teresa ha fatto della nuova immigrazione italiana oltre manica il proprio lavoro, aiutando e fornendo indicazioni ai giovani che sempre più numerosi scelgono Londra quale meta di approdo in cerca di opportunità lavorative. Questo dopo aver sperimentato sulla propria pelle le difficoltà di un ambiente estremamente competitivo. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. Insomma, direi che più che tornare in Italia ormai tu contribuisci a portare giovani italiani in Gran Bretagna, ma ti faccio la nostra domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. Io vedo l'Italia con gli occhi dei miei clienti, quindi un'Italia spenta che non investe nei giovani e mi dispiace che il mio paese debba perdere delle risorse importanti. Ogni giorno lavoriamo con delle menti brillanti che purtroppo sono stanche di lottare quotidianamente contro un sistema che premia chi conosce le persone giuste e non chi vale, ed è per questo che poi si parte per un futuro migliore, ma anche per una quotidianità molto normale. Investiamo quindi forze concretamente, cioè da investire nei giovani, rendendo il loro inserimento lavorativo più semplice e da subito dopo gli studi. Io ricordo per esempio che il mio primo manager qui in UK aveva 23 anni, io 27, una situazione che in Italia non sarebbe mai stata possibile. Ci raggiunge ora in linea Enrico Cocchi, capo dei servizi di Student Careers presso ESCP Europe, ma soprattutto consulente per il progetto Primo Approdo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora Enrico, Londra è una città che mi ha dato opportunità che non credo avrei avuto in Italia, così scriveva Teresa nella prima lettera che ci ha inviato. Quanto condividi questa affermazione e quanto è soprattutto ancora vero oggi? Condivido pienamente. Londra dà tantissime opportunità lavorative, da imprenditori che vogliono iniziare la propria attività come Teresa, ad insegnanti che si vogliono inserire nell'insegnamento, alla consulenza, alla finanza, ci sono tantissime opportunità. È ovvio che bisogna parlare bene inglese, bisogna essere ambiziosi, ma al tempo stesso bisogna essere umili. Credo che sia ancora vero oggi, è chiaro che le cose sono molto cambiate, ad esempio io sono arrivato qui nel 2007, al momento ci sono tantissime persone che stanno emigrando dall'Europa, più o meno sono 2.000 italiani che vengono registrati ogni mese al consolato italiano, quindi è chiaro che è un mercato che sta diventando un po' sempre più affollato. Sei consulente dell'iniziativa, l'abbiamo detto, Primo Approdo del consolato italiano, di cui abbiamo ampiamente parlato nei mesi scorsi e che ha registrato un grande successo. Allora, in sostanza, attraverso un ciclo di incontri gratuiti, il consolato offre informazioni base ai nuovi emigrati sui capitoli chiave della loro nuova vita in Inghilterra. A te chiedo, qual è l'identikit del nuovo emigrante a Londra, visto che li incontri personalmente? Molto spesso giovani, dai 20 ai 30 anni in media, molto spesso con un buon curriculum accademico, quindi spesso laureati, con master, molto spesso anche con dottorati di ricerca, molto ambiziosi, al tempo stesso frustrati dalla situazione italiana e sicuramente a volte il livello di inglese non è quello che dovrebbe essere per riuscire a trovare lavoro nel Regno Unito. Andando sul concreto, in 3 punti i tuoi consigli per chi arriva oltre manica e non vuole fare un buco nell'acqua. Partiamo da come differenziarsi dagli altri candidati. Allora, bisogna cominciare un po' da conoscere le proprie capacità, i propri skills, avere delle aspettative adeguate. Ad esempio, un buon punto iniziale può essere di guardare ai lavori che richiedono l'italiano, ad esempio. Secondo punto, dove cercare le posizioni giuste? Sì, quindi si comincia dai siti internet delle aziende, ci sono anche tantissimi siti internet per lavorare nel Regno Unito come MearCround, Prospects, i Financial Careers, e soprattutto è molto molto importante guardare social media, quindi LinkedIn, Twitter, Facebook, perché sono usati sempre più dalle aziende. Infine, per la ristorazione si può andare direttamente nei bar, nei pub, nei ristoranti con il CV e chiedere di parlare direttamente con il manager. Infine e soprattutto, come ottimizzare la ricerca di lavoro? Direi che la cosa più importante è essere veramente onesti quando si legge il ruolo, quindi leggere bene cosa è richiesto, fare un assessment delle esperienze che si hanno, adattare la candidatura, quindi ogni volta che si manda il curriculum e la lettera di motivazione devono essere adattate, controllare che la deadline sia rispettata, quindi che si mandi la domanda in tempo, e anche essere sicuri che non ci sono frodi, che la compagnia è legittima e che non si sta facendo domanda per i lavori che sono adatti alle proprie competenze, al proprio background. Enrico, grazie davvero per questi preziosissimi consigli, in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie. E domanda di rito, un po' l'abbiamo già riassunto, ma puntualizziamolo per Teresa Pastena: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Partire informati, quindi partire informati con degli obiettivi precisi e con molta determinazione. Un trasferimento comporta non poche difficoltà linguistiche, ma non solo, e quindi bisogna anche essere pronti a fare dei sacrifici iniziali, come li ho fatti io, come li hanno fatto insomma migliaia di altre persone. Mettetevi in gioco a 360 gradi con umiltà e cercate di integrarvi da subito nel paese in cui vi trasferite. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Nuova puntata per la nostra rubrica L'Ideogramma, osservatorio sulle opportunità in Cina. Manuela Verrecchia prova oggi a guidarci nei lavori più richiesti in Estremo Oriente. Sentiamo. Se si cerca un lavoro di qualità e con un buon salario, molto probabilmente oggi è più facile trovare un lavoro in Cina cercandolo dall'Italia. Come? Sia attraverso l'azienda con cui si lavora o con cui si vorrebbe lavorare, sia attraverso società di recruiting che abbiano un focus sulla Cina. Di recente qui a Shanghai parlavo con alcuni giovani che sono arrivati in Cina nell'ultimo anno, mandati dalle loro aziende italiane con un contratto di 3 anni, che è un contratto da expat, che oggi è abbastanza fantascientifico. Il che significa uno stipendio 3-4 volte superiore ora quello percepito in Italia, casa pagata, autista per andare in ufficio, assicurazione medica, volo di rientro in Italia. Che profilo hanno questi giovani e che profilo hanno le loro aziende? Si tratta per lo più di ingegneri ed economisti tra i 35 e i 40 anni. Le multinazionali italiane per cui lavorano sono nel settore energetico e nel settore della robotica e hanno fatto nuovi investimenti in Cina. È importante quindi conoscere quali siano oggi i settori trainanti in Cina, ma anche essere in possesso dei requisiti che il mercato cinese richiede. I profili più ricercati sono quelli con una forte connotazione tecnica e la capacità di sviluppare business. Ricordiamo che in base al piano Made in China 2025, varato quest'anno dal Consiglio di Stato cinese, nei prossimi 10 anni la Cina punterà o continuerà a puntare a 10 settori strategici: la robotica e i macchinari industriali, l'informatica, l'aerospazio, la nautica, trasporti, energia, settore automobilistico, scienze dei materiali, macchinari agricoli, settore medicale e biotecnologie. Per i giovanissimi e per i neolaureati può essere invece più semplice trovare lavoro stando in Cina, preferibilmente attraverso programmi di studio mirati, sia con corsi di lingue che con degli scambi universitari. Oggi segnaliamo altri portali italiani per la ricerca di lavoro in Cina: la Job Bank della Fondazione Italia-Cina, www.italychina-jobs.org, la Fondazione Italia Cina organizza anche un Career Day, la Job Bank della Camera Italiana in Cina, www.cameraitacina.com, per la ricerca di quadri dirigenti il sito www.research.it, questa società di recruitment ha una sezione dedicata alle carriere in Cina. Per maggiori informazioni potete consultare il blog Cina di Frontiera all'interno del portale China Files.